avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Rassicuro la mia amica Tatum, non sono morto. Solo questa mattina stavo facendo altre cose, mi ha scritto su Facebook e ho detto: sono Fabrizio, Gianluca è morto stanotte. L'ho vista un po' preoccupata, poi vedo che sta squillando il mio telefono. Sono vivo, era uno scherzo. È bello che per 5 minuti qualcuno mi abbia pensato come morto, mi dà un grande senso di onnipotenza. E oggi invece, tutt'altro che di morte vorrei parlare di qualcosa che ha segnato profondamente la nostra storia patria. Diciamo che il dopoguerra italiano fino ai giorni nostri è segnato da un film di cui a Roma si sta miseramente, tristemente cercando di commemorare i 50 anni, che è La dolce vita. È qualcosa che in sé dovrebbe rappresentare l'antitesi alla morte, il gusto della rinascita, il piacere del futile, il piacere del frivolo, il piacere di quelle caratteristiche tipiche della nostra componente organica, fisiologica, mentale, spirituale, che ancora oggi permangono in quella sorta di limacciosa ideologia che è il coronismo, il velinismo, il pettegolezzaio, l'humus che scorre attraverso il cafonal proclamato da una parte da Roberto D'Agostino e dall'altra parte concretamente rappresentato in ogni palinsesto televisivo. Cosa rimane dell'Italia della dolce vita? Quale fu la profezia della dolce vita? Fu veramente dolce questa vita, in questa via tarocca? Andate oggi in via Veneto, guardate le vestigia ancora, gli ultimi cascami putrefatti di quell'epopea, sono qualche foto di Barillari attaccata dentro qualche caffè, ancora pieni di puttane, ancora pieni di vecchi stranieri, ancora pieni di avventurieri con le unghie sporche, con i colletti alti, con i capelli impomatati, di camerieri con i piedi piatti che ti fermano e vogliono far entrare nei loro locali. Si respira ancora quest'area tarocca di questa Italia che usava ricostruire un'epopea che in realtà non aveva mai vissuto, di centurioni romani che ancora ci sono davanti ai monumenti nazionali, che ti fermano con la spada in mano, fanno la foto e guai se tu riesci a provi a fare una foto non autorizzato, ti tagliano la gola, una sorta di mafia quella dei centurioni. E beh, viene tollerato anche questo in questa città che mi ha accolto 25 anni fa quando io venni con la mia valigina di cartone dalla mistica Umbria, avevo radici romane e ancora vivacchio in questa città, le sono grato perché mi tollera come si tollera una pulce sulla groppa di un cane, in fondo mi lascia vivere e sopravvivere, ma non posso che considerare quanto in realtà sia illusorio, fittizio, inesistente il mito della dolce vita. Meglio avere notizie esagerate che essere senza notizie. Mio marito pensa la stessa cosa. Spesso è proprio il pubblico che vuole queste amplificazioni. Personalmente, sempre che lei me lo permettesse, io sarei in grado di darle delle notizie mica tanto esagerate, sa. Conoscevi Jane? No. È una pittrice americana che vive qui a Roma. Come se si trovasse in colonia. Ah, sì? La ricevono tutti per sentire le zozzerie che dici. Vedrai, è molto divertente. Quelli sono i Montalbano. Federica, la lupa, le piace allattare i giovanotti. I gonfalonieri, mezza Calabria e le più belle garçonnière di Roma. La piccola Eleonora, 80.000 ettari, 2 tentativi di suicidio. Di San Severino, magnifico castello in Toscana. E quello è Don Giulio e Nico. La sua amica svedese, quest'altro sarà principessa. Vedrai. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. La trasmissione sansonica questa mattina è dedicata proprio a questa tristezza dolce vita. Io passo per via Veneto spesso quando vengo a lavorare, se faccio un percorso alternativo. La cosa che mi dà il vero senso a dolce vita è la cripta dei Cappuccini, proprio all'inizio della via, salendo da piazza Barberini sulla destra, dove i frati folli in anni hanno creato una sorta di allegoria con le ossa dei loro confratelli morti. Ci sono stanze e stanze ornate con lampadari, decorazioni, seggiole, tavoli, fatte con ossa e crani di frati morti. Quello è il vero segno della dolce vita. Da lì comincia, poi si va avanti, si sale, c'è Hotel Majestic, hotel che ha segnato varie epopee, non ultima quella di Sgarbi e della sua compagnia. Andando ancora avanti poi c'è l'Hard Rock Café, il fittizio del Tex-Mex sempre pieno di gente. Salendo ancora cominciano i grandi alberghi, sulla destra l'Excelsior, il luogo dove riceveva Licio Gelli, salendo ancora, e ci sono questi alberghi contrapposti, verso sera ci sono delle procaci signorine che si siedono lì, prendono dei long drink, aspettano qualcuno le carichi e le porti a farli guadagnare la giornata, salendo ancora verso Porta Pinciana, sulla destra c'è il famoso hotel dove il parlamentare post-democristiano, che veniva da una proscura provincia del Meridione, fece la sua notte brava, fatta a base di puttane, cocaina, trans, e ebbe questa grande euforica rappresentazione dell'ultimo momento di gloria di, appunto, di Via Veneto. Poi si attraversa la strada, inizia Villa Borghese, inizia un altro cimitero. Mi ha ricordato l'Excelsior, dove appunto dicevi che Gelli riceveva i futuri potenziali adepti della P2. Io ci ho visto l'altro giorno, non la Ekberg, non Anouk Aimè, non Mastroianni, ma Romiti, quindi questo ti dà anche un po' la temperatura di come tutto vertiginosamente sia cambiato nell'ambito della Dolce Vita. Ma tornando al film, è molto interessante partire dal protagonista. Mastroianni fu scelto da Fellini contro il volere di De Laurentiis, che si ritirò dalla produzione perché lui voleva Paul Newman, voleva l'attore americano di Grido. Invece Fellini scelse questo ragazzotto romano, che all'epoca non era ancora diventato il simbolo metafisico del Latin Lover, perché aveva quel qualcosa di provinciale, del provinciale che guarda con occhio sarcastico lo sfavillare della città. Infatti gli faceva ruoli sempre di autista, di... E Mastroianni arriva e doveva essere una sorta di seguito dei Vitelloni, il ragazzo della provincia che guarda e entra a Roma con le aspirazioni di diventare artista, e piano piano viene fagocitato da questi salotti. Abbiamo sentito prima nel pezzo che abbiamo ascoltato l'aristocrazia nera, naftalinata, paludosa, che lo avvolge e lo allontana dalle aspirazioni artistiche e lo fa diventare un giornalista di scandali. L'ultimo cascame oggi è Scalfari, che si contrappone con Baricco sul senso della barbarie. In fondo questo è la rappresentazione di un'entità superiore. Loro sarebbero i barbari, loro sono coloro che hanno con l'arma dell'osare cambiato la società, rappresentano un'elite. Gli imbarbariti sono gli altri, siamo noi che andiamo per i supermercati, che ci beviamo della merce. Esiste ancora questo senso profondo, quello che una volta era appunto la Via Veneto di Fellini. Sulla barbarie, Pasolini diceva che si eccitava quando sentiva la parola barbarie. Questa mi sembra una barbarie sempre tutta plastificata, molto, molto neutralizzata, poco vibrante, non è sanguinaria, non viene dalla terra questa. Ecco, la barbarie della Dolce Vita, del Fellini, da cosa era rappresentata? Da questi americani che colonizzavano Roma, da questi romani che erano ormai ancora, anche loro, l'ultima propaggine di questo impero, sempre sull'orlo dell'ultima fase della decadenza? È centrale vedere come si facessero a Roma i peplum. Anita Ekberg è l'attrice americana che arriva a Roma, questa sorta di dea nordica, bionda, altissima, che giunge a Roma. E la musica di Rota rende benissimo questo, che è una musica che rievoca le musiche fastose dell'impero romano, e è un po' la musica da night, è qualcosa di orientaleggiante, tutto molto kitsch. Noi abbiamo dato l'avvio a quello che dovrebbe essere una sorta di saccheggio del vostro immaginario, non soltanto l'immaginario remoto, come avete vissuto gli anni la Dolce Vita, cosa pensate che sia Dolce Vita, o voi che abitate lontani dal centro privilegiato, la capitale che oggi, che Giorgi in questi giorni festeggia la sua proclamazione dopo la breccia di Porta Pia, cosa avete idea che fosse stata la Dolce Vita, cosa pensate che sia oggi la Dolce Vita, qual è il segno irraggiungibile della Dolce Vita che nelle vostre tiepide e grigie esistenze non riuscite mai a lambire? 800 24 00 24. È tornata, eccola qua, più fotogenica di una diva. Tutte le sere la stessa storia, ma non si scocciano mai questi qua. Ma palazzo, basta. Quella che se mai, che vivo che se mai. Situato oramai, è un personaggio della cronaca. A Marcia, dice dove vai. Marcia, a Marcia, dice dove la porti, no? Vorrei vivere in una città nuova e non incontrare più nessuno. A me invece Roma piace moltissimo. È una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Anch'io vorrei nascondermi, ma non ci riesco. Non ci riesco. E adesso cosa si fa? Facciamo un giro, restiamo. Ritornano punti che non sono né spenti né assopiti, che contraddistinguono e segnano la capitale Roma. Anche Mastroianni è arrivato a Roma da qualche altra parte, adesso non ricordo bene. Cesena. Di Cesena, ecco, infatti lui è anche è uno dei tanti provinciali che arrivano a Roma con la loro valigina di cartone pieni di speranze. Anche un tempo feci qualcosa del genere, una finta lettera di uno zio arcivescovo che non esisteva, affrontai la capitale, consapevole da provinciale arrabbiato e meschino nell'orgoglio della sua diversità di infimo ordine, che una lettera di uno zio arcivescovo mi avrebbe aiutato in questa città che vedevo composta dove andare a lavorare alla RAI, fra potere politico, potere ecclesiale, una sorta di ventre in cui si contrapponeva questo spirito confessionale e quest'anima laica. Infatti, non a caso, Mastroianni si accompagna a una puttana in questo momento. Ma Mastroianni in questo momento in realtà sta parlando con Anouk Aimé, che è questa annoiata donna dell'alta borghesia che esprime tutta la decadenza di questa noia, di questa sospensione. Stanno per incontrare questa puttana che li porterà poi a vivere il momento di uscita dalla noia. È tutto un mondo onirico, felice. In realtà c'è sempre questo mix fra donne di piacere e gentildonne che alla fine hanno più o meno la stessa vita, le stesse frequentazioni e le stesse attitudini. Il titolo è, tornando al discorso, il titolo è paradossale perché La dolce vita è un film amarissimo, intriso di momenti cupi. È straordinario come sia passato nell'immaginario collettivo con la riproposizione ossessiva nei TG della scena della fontana di Anita Ekberg, sia passato un qualcosa di sfavillante. In realtà è un film che ha una cupezza di fondo, che esprime il disincanto, c'è molto flaiano in questo. Andiamo avanti perché la signorina che accompagna Mastroianni, di cui stavamo parlando, è in fondo una presenza costante nella dolce vita di Fellini, ma è anche una presenza costante, se pensate, nella nostra storia patria, anche degli ultimi mesi, delle ultime settimane, degli ultimi giorni. E quando si parla di Roma, quando si parla di spirito della romanità, c'è sempre qualcosa intriso fra potere e donne di piacere. In qualunque maniera, poi donne di piacere nelle più articolate versioni contemporanee sono anche uomini di piacere travestiti da donna, ma non cambia il segno, anzi nella dolce vita già c'era questa profezia sui trans, sui travestiti e via dicendo, c'è una famosa festa finale fatta con tantissimi uomini vestiti da donna, uno di loro è Dominò, che ancora è un cantante, un cabarettista, un grande artista che canta vestito da Juliette Gréco nel suo locale vicino a Castel Sant'Angelo. Sì, Fellini è un po' il Petronio di quel momento, c'è questa decadenza profonda che appunto vediamo nel film. Non è andata bene stasera? Ma va, mi è capitato un tartufo, mi ha dato 1.000 lire in pacchetto dei nazionali. Com'era, giovane o vecchio? Boh, chi l'ha visto in faccia? Lei ci andrebbe con una donna come questa? No. Perché? Non è mica peggio di tante altre. O lei non ci va con donne così? Sì, qualche volta. Senti un po', Gregory Becche, me volete far capire qualche cosa pure a me? Che volemo fa'? Ma non avevi detto che volevi essere accompagnata a casa? Sì. E noi a casa ti portiamo. Perché? Cosa avevi pensato tu? Io? Niente, cosa pensai? E come va a finire questa notte brava? Va a finire che appunto l'annoiata Anouk Aimé e Mastroianni portano questa prostituta nella periferia estrema di Roma, a Torre dei Schiavi in realtà è girata la scena, e in questa casa popolare, allagata per giunta, loro giocano alla stravaganza trascinati da Anouk Aimé e fanno l'amore sul letto della prostituta, questo letto cencioso, giusto per provare l'ebbrezza di un momento, no? Questa è la notte brava che si concede, la notte brava, un film di Bolognini analogo, legato a questi momenti, a questa decadenza profonda. Mastroianni in realtà appunto è un provinciale, Mastroianni nel film viene da Cesena appunto il suo personaggio, e gioca anche lui, cerca di fare un gioco sempre più alto, e nel corso del film gli aumentano le occhiaie, diventa sempre più pallido, anche in maniera molto artificiale e evidente, cioè la corruzione lo scolpisce, lo dipinge, lo definisce. C'è anche una putrefazione fisica nel frequentare. Alberto, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Volevo esprimere la mia opinione su quella che è appunto la dolce vita, la trasformazione che c'è stata del concetto proprio di dolce vita da quegli anni agli anni moderni. Oggi, ieri, la dolce vita era importata, diciamo, e quindi noi sull'onda gli italiani seguivano con dei testimonial che ci provenivano dall'estero e quant'altro. Ora invece proprio è più nostrana, è diventata più nostrana, con qualche sprazzo di dolce vita, di star internazionali, ecco, però è diventata più nostrana e coinvolge politica, economia, spettacolo, sport. Ma io penso che accadesse anche allora, un più velato riferimento, ma in sottotraccia c'era sempre la grisaglia palpitante dietro ogni vaccona straniera che veniva rappresentata in quelle circostanze. Sono d'accordo, è un discorso appunto di figure che si ripropongono, ora magari non è più la battuta da strada che si ascoltava prima da lei, magari la si trova la stessa figura un po' più colta e raffinata. Sì, oggi si chiamano escort, però hanno lo stesso livello di notorietà. Sì, ecco, appunto, poi giungono allo stesso livello di notorietà. Io da Bari qui posso dirle che... La salunga lei. Diciamo, non è diventata la dolce vita, si è trasformata in movida a livelli più o meno... Beh, voi avete esportato il daddarismo come caratteristica pugliese in tutta Italia, quindi di questo sì, dovete farvi una bandiera. Non ha incrementato il nostro prodotto interno nord, diciamo, questo daddarismo ha diciamo, non so, forse ha fatto ricchezza di quel mondo proprio che dicevo io della dolce vita che gira intorno al gossip, politica, economia, sport, questo. E quindi è stata, diciamo, una lettura profetica. Alla fine non è che ci fu allora la dolce vita e oggi la guardiamo con nostalgia, era la profezia del puttanaio in cui abbiamo sempre vissuto alla fine. Che si evolve, diventa più, diciamo, nostrano, non ha bisogno più, ci siamo creati i nostri punti di riferimento, diciamo, di opinione. Diciamo che oggi è moltiplicato a livello popolare. Allora c'era l'idea che ci fosse una sorta di movida che veniva osservata dagli altri che erano semplici spettatori, cui privilegiati erano, ecco, questi personaggi a cui tutto era lecito per il rango che loro rappresentavano. Oggi qualsiasi parrucchiere, qualsiasi ragioniere può permettersi di fare le stesse cose. Sanson. Appunto, nel film Anita Ekberg è la diva americana e i paparazzi che nascono come termine nel film, i secchiaroli, i barillari, riprendono momenti di quotidianità, le liti col fidanzato, quindi vedere dal buco della serratura il divo. Oggi sono divi tutti e non è nessuno, perché la televisione permette appunto la daddario o queste figure minorrime, terribili, che insomma appaiono per brevi momenti. Beh, è un modulo serialmente riprodotto, riproducibile, come un abito di firma che poi viene prodotto in un grande magazzino. Sembra poi il discorso che fa Marilyn Strip, Il diavolo veste Prada, quando vede il golfino infeltrito, la sua dipendente dice: tu pensi di essere diversa, c'è quel golfino schifoso, ma sai, dietro c'è un'idea di uno stilista che 10 anni fa inventò questo colore ceruleo, e tu quindi sei figlia anche di quel tipo di idea. Oggi sono figli di un'idea di trasgressione che nemmeno apparteneva agli anni 60, forse praticata nella Belle Époque, che man mano è diventata sempre più un prodotto di consumo lodo, ma come vale l'intelletto e la capacità di allucinare una figura di intellettuale nel baricchismo, è la stessa cosa praticamente. Eccoli! Eccoli! Alzati al massimo, Alberto, e appena i bambini sono arrivati all'albero torna in carrello su di loro. Aspetta a partire, ti do io il segnale col fazzoletto. Ciao bella bambina, come stai? Stai bene? Centrali col 5.000, centrali tutte e due! Butta l'arco sulla folla, qua è buio! Ci sta pure voi all'ammezzo, no? Questa è un'altra caratteristica nei tanti micromondi creati, allucinati e circoscritti alla dolce vita, che ancora oggi è molto presente anche nello spirito della capitale, questa sorta di nuovo misto clericalismo diffuso. Sono tutti diventati baciapile, anche i peggiori libertini, i peggiori peccatori. Qua erano i bambini che hanno visto la Madonna. Sì, sì, e quindi ci sono i paparazzi, c'è tutto questo mondo mediatico, questo circo che si accende attorno all'apparizione della Madonna, però appunto un'altra ennesima cosa fatua. 800240024 sull'idea della Madonna pellegrina, elemento forte politicamente cavalcato in quegli anni. Lasciamo la linea alle informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Marcello, come here, hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Certo, mi domando ogni volta che penso a questa scena come sia possibile che l'icona più rappresentativa dell'Italia all'estero, ma anche quando noi raccontiamo noi stessi, sia questa immagine di un farlocco che entra a piedi dentro una fontana dove c'è un puttanone svedese che lo chiama. Questo può essere rappresentativo di cosa? Qual è il gesto di intransigenza, di taglio completo con la vita precedente che fa Mastroianni entrando a piedi, poi con una misera tuta da sub sotto lo smoking che ho letto, aveva anche diciamo la protezione al mal di schiena. Perché svedese non aveva bisogno di proteggere. Sì, lei anche senza mutande magari, lui con la muta perché c'aveva il mal di schiena, la maglietta della salute, proprio c'è il pusillanime italiano rappresentato in questo. Il frusinate Mastroianni aveva bisogno di questo. C'è un aneddoto divertentissimo su questo, cioè Mastroianni si presentò, convocato da Fellini per la scelta dell'attore, si presentò dove Fellini e Flaiano stavano scrivendo la sceneggiatura in spiaggia a Fregene, no? E appunto chiese a Fellini, al maestro col suo agente, cercò di assumere un atteggiamento pomposo e di chiedergli: posso vedere la sceneggiatura? E Fellini disse sì, chiamò Flaiano gli portò un foglio su cui era disegnato un uomo con un enorme fallo sott'acqua e una serie di sirene che gli sciamavano attorno, quindi questo lo spirito comunque è satirico. E poi questa scena è stata estrapolata dal contesto e è diventata la summa metafisica del film, ma in realtà, ripeto, questa è quasi una cartolina incastonata appunto nell'illusorietà profonda che sottende a tutta la Dolce Vita. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Io ho detto tante volte, non dico buongiorno, voi dovete cominciare a parlare, non lasciate questo minuto di pausa. Io dico buongiorno e lei comincia a dire la sua. I convenevoli del quotidiano. Non faccio i complimenti perché sono chiamato, evidente seguo la trasmissione. Certo, punto. È chiaro. Può anche esprimere l'odio. Punto, l'unico ricordo bello che ho, dei tanti, perché l'ho vissuta tutta questa cosa in adolescente avanzato, è questa di questa figura ormai non più conosciuta di Schubert, sarto mega galattico, tipo Don Lurio, seduto, credo, da Donei, mi ricordo vagamente, perché Donei era meglio del Caffè de Paris all'epoca, con queste meravigliose, eteree, bionde indossatrici, come minimo due, una a destra e una a sinistra, che fumava queste sue lunghe sigarette col bocchino, e sembra, dice la leggenda metropolitana, poi neanche tanto leggenda, che fosse un richiamo per le allodole. Invece? Penso che sia un richiamo per l'allodole. Per quale allodole, però? Le allodole maschili, evidentemente. Schubert è l'antesignano in tutto. Ah, c'è un doppio senso pecoreccio. Certo, esattamente così. Vabbè. Comunque, diciamo che è una figura, uno stereotipo, quella del raffinato, la raffinata zia, come si dice, sì, esatto, appunto, nell'ambiente, ipercelebrato nella Dolce Vita, faceva parte dell'humus locale, ancora non esisteva una forma di orgoglio rappresentato. Esatto. C'erano questi signori che, facendo una professione che permetteva loro di ostentare con orgoglio, Gio Staiano, ricordiamo, è stato il primo trans della storia del mondo, della storia d'Italia, che era un grande attore, rappresentava molto questo personaggio, nell'ambiguità tollerata, in questa corte trimalcionica era anche possibile avere questo. Sì, sì, era questo mondo decadente, che un personaggio chiave del film è Steiner, poi invece l'intellettuale un po' luterano, interpretato da Cluny, Alain Cluny, che invece rappresenta il rigore estremo, un rigore che poi lo porterà a uccidersi, a uccidere i figli, quindi a gettare un'ombra cupa su tutto il film, è l'alter ego di Mastroianni, il riferimento contro cui si scontra. Pensa anche questo, che se ci pensi bene, se letto come si leggono le cinture di Nostradamus, poi a posteriori ognuno ci vede delle profezie rispetto all'attualità, ma in questi padri che uccidono i figli quanto c'è attualità? Penso che in pochi paesi del mondo ci siano delle cronache così piene. Anche oggi sui giornali c'è un altro padre che ammazza i figli, mogli che ammazza i mariti. Sembra che in Italia l'omicidio è diventata la prima forma di risoluzione di ogni conflitto relazionale in ambito di consanguinei. Sì, e poi appunto i media, già allora, per esempio nel delitto di Steiner, che uccide se stesso e i figli, ci sono i paparazzi che si scatenano come avvoltoi, c'è proprio l'irruzione violenta, una delle scene più forti, più traumatiche del film. Oggi è assolutamente normale appunto intervistare vicini per giorni, poi creare plastici di ville, di cogne, appunto, e bellicarli con voluttà per anni e anni con ospiti, insomma, e quindi tutto si è ingigantito, ma partiva da lì, i germi erano già lì. Oh, buongiorno Marcello, cosa signora, c'è? Sono il dottor Lucenti. Avremo piacere. Bisogno di parlare un momento con lei da sola. Da sola? È successo qualcosa? No, cosa abbia la compiacenza di seguirmi, signora. Ho qui la macchina, venga con noi, la prego. Ma perché? È successa una disgrazia. Cosa? Non si spaventi, signora. I bambini! No, non faccia così, venga con noi, la prego, ragazzi, via, levatevi! Cosa è successo, Marcello? Lei me lo deve dire, che cosa... Li vedrà più tardi, bambini, sono feriti, soltanto feriti, ma le prometto, signora, basta, insomma! Feriti, ma come feriti, me lo dica! Stia calma, ragazzi, via! La folla dei paparazzi, del tutto insensibile, ma come giusto nel mestiere, di fronte alla vedova e madre di figli ammazzati, che viene accompagnata nel luogo del delitto. So che questo operà una ferita all'amica Tatum, che già mi ha scritto che le ho tolto 10 anni di vita perché soffre di attacchi di ansia e ipocondria. L'amica in cui tu sei stato testimone, questa mattina avevo scritto che ero morto perché mi piaceva che qualcuno mi pensasse come morto, ma è una mia mastroiannica leggerezza, sei d'accordo? Sì, come queste morti finti che possono creare poi morti vere in chi ascolta, in chi... l'impatto può essere tremendo dalla beffa, ma vabbè, insomma. Ecco, andiamo, riflettiamo ancora su questo rapporto fra voluttà e morte presente nella Dolce Vita. Fellini ci giocava molto, gli piaceva molto giocarci, perché invece però l'immagine che rimane oggi è ben diversa. Se guardi qualcosa rispetto alle tristine manifestazioni che vengono fatte in questi giorni per ricordare la Dolce Vita, si ricorda solo lo splendore, la Ekberg nella fontana, la gloria dei personaggi, il bel Mastroianni. Abbiamo una sorta di filtro, quando in realtà era implacabile e assolutamente fedele alla nostra realtà quello che era la Dolce Vita. Infatti era cupa già allora. C'è una scena meravigliosa del film in cui il padre arriva da Cesena, il padre fa il rappresentante, viaggia e vuole vedere il lavoro che fa il figlio, che è stato spedito a Roma a trionfare, anche a mostrare tutte le sue doti intellettuali. Il padre arriva e vuole lasciarsi trascinare in questa vita folle che fa il figlio. E dove figlio. Lo porta? Ovviamente finisco in un night, che poi sono tutti night, che è un tema che abbiamo già toccato. È il night di Fantozzi, diciamo chiaro. Sì, Fantozzi e Filini. L'ippopotamo. È l'ippopotamo, cioè, di Fantozzi e Filini. Questo esotismo da catto continuamente evoca questi mondi, l'Arabia, il mondo, il teatro Kabuki, tutto viene evocato, tutto viene lanciato. Però il padre finirà tristissimo dopo aver cercato e quindi di fare l'amore con questa prostituta, finirà sull'orlo dell'infarto, seduto su questo letto a fissare l'alba livida su Roma. In questo silenzio agghiacciante si confronterà col figlio e prenderà il primo treno e sparirà. C'erano appunto molti momenti di vuoto, di asfissia in questo film. Sì, ma è il senso che dà la capitale. La capitale, se uno cerca di violare oltre un certo punto la convenzione che tiene in piedi questo fantoccio, questo essere fantasmatico, finisce appunto come il padre Mastroianni, finisce a guardare un'alba su una città che sì, ti accoglie, ma ti accoglie come la pulce sulla groppa di un cane. Se non gli dai troppo fastidio, se non cerchi di entrare troppo dentro, se non cerchi di far parte in realtà di tutti gli altri parassiti che succhiano il sangue di quel cane. Sei sempre inquieto, sempre scontento. Marcello, quando due persone si vogliono bene, tutto il resto non conta. Di che cosa vuoi aver paura? Di te, del tuo egoismo, dello squallore desolante dei tuoi ideali. Non lo vedi che quello che mi proponi è una vita da lombrico? Non sai parlare d'altro che di cucina e di camere da letto. Ma un uomo che accetta di vivere così, lo capisci che è un uomo finito? È veramente un verme! Io non ci credo a questo tuo amore aggressivo, vischioso, materno! Non la voglio, non mi serve! Questo non è amore, è abbrutimento! Come te lo devo dire che non posso vivere così? Che non ci voglio più stare con te? Voglio star solo! Scendi da questa macchina! No! Sei una carogna, un vigliacco! Noto con... ma nemmeno tanta sorpresa che in realtà da Dolce Vita non gliene importi più una mazza a nessuno. Lo vedo dalla disattenzione nel telefonare. Di sotto c'è sempre un grande desiderio di rappresentarsi e di rappresentare il proprio pensiero rispetto a un argomento. Questa da Dolce Vita è un'idea proprio passata, ammuffita. Anche perché oggi la chiamiamo in altra maniera, oggi la guardiamo con disprezzo, quindi siamo macerati da questa sorta di schizofrenia. Dobbiamo guardare con nostalgia e con un senso di paradiso perduto la Dolce Vita felliniana. Non ci rendiamo conto che oggi viviamo nella stessa illusione, nella stessa rappresentazione di abiezione, e la disprezziamo. Quindi come facciamo a amare e disprezzare la stessa cosa? Mastroianni, in questa sua rivolta amorosa, dice alla sua donna che in realtà lui da provinciale, che quella la vita avrebbe dovuto fare, il marito tranquillo, contento e soddisfatto delle attenzioni di una donna banale, in realtà proprio perché sta nella capitale, si sente portato a qualcos'altro. E questo è il grande dramma dei provinciali che entrano in questa città. 800 24 00 24, lascio con di diligenza la linea alle informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ecco la Gube! I signori vogliono cenare? No, no, no, no, io non mi sento bene con lo stomaco. No, no, no. Drink, c'è un drink. Un campanello. Sì, drink significa in inglese voler bere, voler buare. Ah, io non capisco l'inglese. Champagne, signore? Champagne? No. Champagne, no. No. Oh, no. Che peccato, signore, perché abbiamo proprio delle ottime mani. Lo so, ma c'è com'è. Ti presenti? Ma che uno si mette la trippa secca sullo stomaco. Ah, va, trippa secca. Giovanotte, dico, ma andiamo via. Vuoi Chandon? Non ho capito. Vuoi Chandon? Ah, sì. Vuoi Chandon? Ah, vuoi Chandon? Adesso è Sher Antoine. Ehi, allora le mani. Io pensavo che le signore preferiscono qualche cosa di alcolico. Naturalmente, per avere un'immagine riportata a canoni oggettivi di una realtà distorta da un sogno, da una visione artistica, dalla mediazione poetica di Fellini, bisogna fare un doppio salto mortale e andare a pescare la satira della dolce vita che faceva Totò. Sì, la satira appunto coglie nel segno questi provinciali, Totò e Peppino, che arrivano con i loro paltò impellicciati, rompono in questo night e danno tutto libero sfogo all'esotismo del francesismo, della parola straniera, della voglia di champagne a fiumi, cioè, e questo l'uscita del quotidiano mostrata in tutta la sua virulenza, però è sempre un'illusione dipinta, tipica dei fondali di Trompe-l'œil dei night. Mi fa anche riflettere il fatto che oggi vedo una difficoltà nel rappresentare il proprio pensiero rispetto a questo modello, ma mi rendo conto che è estremamente fastidioso e doloroso rappresentare l'idea della frustrazione di chi si avvicina a un'idea allucinata, rappresentata, immaginata attorno alla grande capitale in cui circola tutto, circola il pensiero, circola l'arte, circola la politica, circola la spiritualità, e che è fatta di tante persone, il luogo comune più frequentato, che a Roma non esistano più romani, che vengono da fuori e a Roma cercano proprio questo. Ma una volta entrato, assaggiato, lambito o bevuto fino all'ebbrezza il clima della città, ci si rende conto dell'inadeguatezza, ci si rende conto quello per cui eravamo biologicamente pensati e costruiti non trova corrispondenza in questo eterno divenire della città. Anche perché Roma ha perso un po' quel privilegio, in quanto i divi sono quelli della televisione, che vediamo, forse questo è il modello attuale, in Costa Smeralda. In Costa Smeralda c'è la gente che pur di andare vicino ai divi, di farsi una foto vicino a questi divi, è disposta magari a spendere 6.000 euro in una serata per sentire il DJ che annuncia il tuo nome, perché, e poi ti sparano qualche bengala, paghi appunto 8-9.000 euro, 3-4 bottiglie di champagne che neanche assaggi. E quindi questo è oggi il traslato, forse, sì, non sei stato vicino a qualcuno del Grande Fratello magari in certo momento. C'è una moltiplicazione dei non luoghi della felicità. Allora l'avevano identificato in un posto che geograficamente era già fortemente caricato, era Roma, la capitale, c'era il Papa, c'era il governo e c'era anche tutta l'ebbrezza della trasgressione. Passavano gli stranieri, le dive, il cinema italiano del dopoguerra nasce a Cinecittà, cioè riprende Cinecittà, però allo stesso tempo nasce Via Teulada, qui nasce la rappresentazione anni 60, Kessler, Alberto Sordi e Dentone, del boom economico. Quindi il luogo della rappresentazione era ben circoscritto, era Roma, infatti partivano da Roma, andavano con le 500 piccole strappamutande di paese che poi sono diventate grandi dive che ancora oggi teniamo sugli altari. Alessandro. Buongiorno Nicoletti. Senta, tutto è partito perché mi sono fortemente irritato di una sua osservazione, magari nelle sue intenzioni banalissima, il puttanone svedese. Quello è quello che rappresentava l'Ekberg in quel film. Ho capito, però io ai tempi, che me la ricordo perfettamente, avevo quest'idea, invece l'ho sepolta in un oceano di dolcezza. Sentirla chiamare così e confrontandola col puttanone moderno mi ha irritato. Ma in io modo mica ho detto, mica l'ho confrontata col puttanone moderno. Ma guardi, ma non l'ho chiamata per questionare. Perché poi puttanone, mi scusi, è una parola piena di dolcezza. C'è qualcosa di materno, di amica del cuore, di iniziazione adolescenziale, non è un termine dispregiativo. Lei è uno snake charmer, eh? Un incantatore di serpenti. Però no, volevo dirle invece una cosa che invece... No, ma perché la... Io ricordo con tenerezza le mie amiche puttanone, voglio bene a tutte, sì, le ricordo ogni momento. Ecco, nelle mie preghiere, però... gli attimo estremo della mia vita, mi ricorderò le amiche puttanone, mica le altre. Ecco, eppure mi sono infastidito, perché invece evidentemente con l'età, io ho 54 anni. E io ce n'ho più di lei, pensi, sono più vecchio ancora. Ecco, l'ho sepolta invece in un oceano di dolcezza. Però invece le volevo dire una cosa, quando ha detto non gliene frega più niente della dolce vita alla gente, io ho detto che peccato, invece era pieno di insegnamenti, e gliene butto lì un altro, che ogni giorno quasi ha sentito della storia di Brescia, di quel sì, padre, cioè, che l'ho citata, sì. Ecco, ma è pazzesco, cioè secondo me Fellini aveva intuito tantissime cose, questo fatto che siccome non ci sono io, tu è meglio che ti uccida perché tu non ce la puoi fare. Sì, diciamo che è una cosa che terribile. Appartiene al dominio della tragedia, è sempre stato così, sono sempre stati madri e padri che si mangiano, sgozzano i figli o fanno in modo che i figli vengano sgozzati. Fellini aveva delle doti di preveggenza, era un grande frequentatore di maghi, di astrologi, di sensitivi, quindi è logico che abbia intuito alcune linee della nostra società, ancora presente nella nostra società. Alessandro. Alessandro, era questo? Allora Mario. Mario. Buongiorno, intanto la trasmissione mi ha attirato subito, vi seguo sempre, ma questa mi ha attirato subito al punto che vi ho chiamato. Dunque, fra le tante cose che sono state dette di Fellini, io mi ricollego a due o tre episodi. Uno che mi è rimasto abbastanza impresso è che anche dopo alcuni anni, diciamo 3-4 anni, io mi trovavo in varie località e venivano ragazze giovani, proprio giovani, io avevo 17 anni allora, e chiedevano di Fellini, chiedevano della dolce vita, sono rimasto allibito. Che poi non è mai esistita Via Veneto, fu una costruzione del tutto fantastica. Loro chiedevano appositamente questo mio. Ma guardi che i giapponesi ancora vengono a fare le foto a Via Veneto, perché pensano... I giapponesi senza nulla togliere, perché magari arrivano sempre con un po' di ritardo in questo. Allora, per quanto invece riguarda l'aspetto tecnico del film di Fellini, sono rimasto allibito letteralmente su un fenomeno che non si è mai più ripetuto in nessun altro film. Quale? E cioè, tutti i personaggi apparsi nel film, specialmente La dolce vita, sono rimasti impressi, proprio calcati sulla memoria di ciascun italiano, non su me soltanto. Sono convinto su tutti. Sì, sì, ma è stato un film denso di potere. Sì, sì. È stato un film denso di mitopoiesi. È stato il film che ha determinato le categorie in cui ancora ci identifichiamo dopo 50 anni. Stefano, così chiudiamo in tempo. Pronto? Eccolo. Sì. Buongiorno, no, volevo dire un po' certe cose. Sul fatto che praticamente si sofferma un po' queste cose di. Questa è un'altra cosa che noto in molte altre. Purtroppo la sento talmente fluttuante e indeciso che sono costretto a segarla. Fabrizio. Buongiorno. Per la qualità del segnale, non per quello che diceva, che non ho capito. Fabrizio, chiudiamo con lei. Io ammetto umilmente che il film non ho ancora avuto modo di vederlo, l'ho visto a pezzi, come me la state facendo ora gustare voi. Vabbè, no, si vive lo stesso, si sopravvive lo stesso. Si sopravvive. Sì. Io ho una grande nostalgia di quei tempi in cui praticamente non ero nato, che sono del 69. Io mi faccio l'idea che questa... Pensi, io nel 69 ebbi il primo motorino. Nel 69, Io mi sono fatto l'idea, no, che questa Italia che tribolava a mettere insieme il pranzo con la cena... Beh, dove... ma fino a un certo punto, guardi, anche queste sono... avevano attese molto più parche, c'è più tribolazione oggi nel vorrei ma non posso, secondo me. Ringrazio Giuseppe Sanzon, ringrazio Alessandro Chiappini, ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio amici e amiche che hanno ascoltato in silenzio questa trasmissione senza chiamare. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.